Tanto ti ascoltavo, dato che quando ti accompagniamo, però pensavo, per essere Marramobile usciva abbastanza bene, chissà cosa va via di Potenza. Infatti, ma noi ci siamo sentiti quando lui stava scendendo la tempia, figurati un po'. Ma una buona zona quella per qua, stai scherzando? Io a Roberto lo sentivo sino all'ingresso del cancello dell'impianto, ma ti rendo conto che io avevo 250 watt di macchina, però lui arrivava benissimo, questa è una zona molto aperta, non è che ha problemi di novità, buona attaccata a largo. Da qua veramente puoi scoprire tutti i punti di riferimento. Arrivano molto molto bene, tu immagini io i camionisti quando sono a casa, magari nel pomeriggio mi accendo, metto un ascolto sul 5, li sento 7, 8 parlando uno con l'altro, anche 9, proprio dall'inizio della piana molto molto prima di Abbasanta. Sì, vabbè, ti c'è una posizione, ti sei aperto molto meglio di me, però questo TGN ha detto che è strano che riesca a arrivare questo qua. E ho detto, allora che non c'è un'antenna direttiva o c'è un po' di potenza, ma l'ascoltavo bene, vedi, rispetto a Pinocchio il Moro, che lui l'altro giorno aveva 400 watt, lo tiravo con le pinze fuori, quello arrivava abbastanza bene, e infatti ha detto, o c'è un po' di potenza, adesso mi stai dicendo addirittura che era in macchina, figurati. Sì, era in macchina, e questo tipo è di Usio, lui, abita Usio, ed era andato a Tempio, era di passaggio, cazzo di... No, era per l'Italia, arrivava a Santiago... Uno, ma la radio era buona, la radio, la pitta. A me non arrivava Santiago uno, però la radio era buonissima. No, io non era... No, il disegnare è stato 5 più o meno, 5 sì, però lo tiravo pure bene. Cioè, non dico radio 5, ma almeno 3-4 di radio già glielo dà. Giovanni si chiama questo tipo, Giovanni. Voleva entrare, poi in quel momento che stavo per entrare ha salutato, o tu hai salutato uno dei due, adesso mi lamento, e infatti che cosa c'era a fare? E stavate chiudendo. Poteva entrare prima. No, ma ho sentito un secondo, un minutino, ho lasciato parlare perché ho sentito il discorso di Tisienari, eccetera, ho detto di strano che riesca ad arrivare così bene, da così lontano. Ho detto, boh, che ti ha chiesto a te se tu potresti stare in mobile o se lì in fissa. Vi siete fatti i complimenti perché siete arrivati tutti e due. Sì, bravo, e lui mi aveva chiesto se ero stazione fissa o MBM, io infatti ho detto che ero stazione fissa. Mi ha detto, stai arrivando abbastanza bene, cioè tu mi arrivi alla radio 5, dice ne arrivavo. A lui lo stesso mi arrivava bene, però mi sembra strana di Siena, non mica lontano. Ma no, allora considera che da qua, da dove abito io, all'ingresso di Perfugas erano 48 chilometri. 48 chilometri di Siena e 6 chilometri da Perfugas. 6-7 km da Perfugas, mi pare, forse anche meno, è proprio attaccato. Quindi fai tu, insomma, poco più di 50 km, dai. Poco più di 50 km, 56 km, 60 km da Sass. Ma in linea d'aria questa zona praticamente la prende in mezzo a Chiaramonte, Perfugas, capito? Chiaramonte Martis. La passa in mezzo, quindi per forza deve arrivare. Ma a Chiaramonte non ci riusciamo a parlarci, Claudio? A Chiaramonte Gimino venne, cercando Carboni, ex CH23, che è l'animatore, altri non ce n'è, perlomeno che sappia io non ce n'è. Se tra Carlo 27 già lo senti, sì, Carlo 27 dove c'è la torre. Proprio in alto, praticamente non vede Sassari perché c'è Osino davanti, ma già riesce a passare, c'è Nulvi prima e poi Osino, però già passa lo stesso. Infatti avrei voluto fare una prova a vedere se Chiaramonte riesce ad arrivare a Sassari, perché c'è il monte di Osino, ho detto vai, lo chiudo per quel passaggio lì. Ma io in VHF non ho grosse difficoltà, ma comunque non è che arrivi così tanto forte in diretta, però via ponte non ci sono problemi, ma in diretta già ci sentiamo, quindi tenendo conto che le VHF sono molto più difficili in 11 metri, 27 ci va che uno esce con un attimino interno e ho tocca pigliare pure i vizi, capito? Tutto qua. Vabbè ragazzuoli, io ho sentito una franchetta, sono entrato a salutare, adesso rimetto il microfono a Domenico, così lo saluto, nel frattempo saluto sia a te Roberto e a Falchetto, eventuali amici in ascolto, che vado a cenare. Se coincide a dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati con quello che volete per tutta la settimana. Domenico, a te il microfono, se mi stai ascoltando cambio. Continente c'è andato da me, mi pare mezzo veneziano e mezzo torinese. Ciao fra, comunque mi ben sentito, difficilmente mi trovi dopo, perché anche io adesso troppo vado a mangiare, appena mi chiamano e guardo un po' di televisione e poi mi trombo. Ok, avanti Falchetto per Claudio. Cappa, buona carica Claudio, se coincidate dopo, se lo ritieni di super salutato anche dalla mia parte. Ciao Tapparella. Cappa, d'accordo, ciao anche a Luca, dai un abbraccio a tutti e ci sentiamo alle prossime volte a cenare, difficilmente anche io riaccendo, ma comunque già ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Lugariello, avanti, cambio passo, compro e vendo, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Domenico Tata, mi ascolti, mi senti, amici. Cos'è questo? Un'altra musica? Cosa ci hai messo? Compadisco, cos'è? Metto le cassette? No, stai andando bene. Dove sei arrivato? Dove? Tiro fuori benissimo, il segnale è buono, vabbè oggi c'è poco di sub probabilmente, comunque ti ascolto perfettamente, considerando che sei nel forso sei Santiago 7 qua. Ti rilancio a Luca che forse è in posizione un po' meno favorevole, l'hai sentito Luca Domenico? Basso Roberto, Domenico dove sei arrivato? Chiesa di Saccaggi è arrivato, adesso dovrebbe migliorare perché inizia a salire comunque, avanti Luca per Domenico. Basso, non so come mi ascolti tu a me con le coordinate, ma ti sento basso. Andando a salire, comunque la radio è fortissima, proprio non si è abbassata di niente, sempre 5 Domenico, segnale scende 6, 7, però la radio è eccezionale, ottima radio. Falchetto sicuramente è quello che l'ascolta meglio di tutti, avanti Falchetto. Positivo, sì, buonissima la radio, gli ho fatto già complimenti da 2-3 giorni, buona Domenico, buona per la truppa. Santiago 9, stai ricevendo la bomboletta, ma hai sollevato anche qualcosa di potenza, pure ti hanno toccato. Luca, ce l'ho tutto regolato all'esterno, capito? Adesso in poche parole dovrei essere sono a metà, tutto a metà, non potrei alzare ancora di più, ma non mi piace alzare di più, ho visto che va bene abbastanza così e non alzo di più. 9-10 sei arrivato a questo passaggio, più stai andando più stai aumentando. Aumentato. micidiale, eccezionale. Poi non è il classico baracchino che è tutto con modulatori che ti fanno tipo il petto elicottero, non si comprende nulla, molto chiara la voce. Chi te l'ha fatto? Ma qua in Sardegna? Ultima radio, complimenti. Ok, avanti di nuovo Luca, adesso ho preso domenica, ascolti perfettamente, avanti. Luca. Dai qualche. Ehi, ehi. Ehi a lui, tutto Roger, la grande qua è picchi da 9:10, 9, 8 e mezzo, buono, buono. Fuori l'FM, eliminano l'FM, infatti ho detto solo per curiosità, non c'è problema, non ti preoccupare, va bene anche la M, già sta andando alla grande. Canali ne hai 40 o te ne hanno aggiunto anche qualcuno? Ma cos'è, 2001 questo? Ho capito, sì, già. Non sapevo faccio solo le modifiche anche per quelli lì. A me non è come mi stai ascoltando? Cappa, il ricettore com'è questo apparato? Come sta andando il tuo? Prende qualcosa con tutte queste modifiche? Dico la radio, mi ascolti sempre Radio 5 o ho avuto dei cali io? Ti lancio a Falchetto e poi a Luca, avanti Falchetto. Come ti arrivo io da me? Vedi un po' come ti arrivo Domenico, vedi un po'. Ah, è positivo, positivo. Già da me. Vai Luca, se ci sei. Sento, non vedi io da ti ascolta sempre, probabilmente a te i palazzi che c'hai in giro ti assorbono tutte le onde e non riesci ad ascoltare a lui, comunque ti tira la radio, dice la radio è buona, il segnale non è forte però ti tira fuori. E questi passaggi un pochettino si sono abbassati, dove comunque ti riascolto sempre. E quindi arrivo un po' più forte di Falchetto come segnale, allora di radio è più forte Falchetto, vabbè io radio qua sono al minimo, e per esempio posso anche sollevare sia di radio che di segnale. Ho capito, ci arriva più forte il radio. Aspetta che stava parlando, scusa. Vabbè ripeti che c'è Luca sovramodulato, riprova, ripeti. Non ho capito, cosa hai detto? Chi? Io o Domenico? No, tu cosa hai detto? Che non ho capito, perché arriva più forte, io ero più forte, non ho capito niente. Allora, di segnale, arrivo più forte io di Falchetto, però Falchetto arriva meglio di radio, ha detto, un po' più forte di radio, mentre tu ti ha sempre ascoltato più basso di me, dice Santiago 3, 2, 3 di segnale, però di radio ti tira fuori. Il problema è che tu non riesci a sentire a lui perché c'hai tutti quei palazzi in giro che non c'è, cioè, tu guadagni bene in trasmissione, però c'è poca ricezione, cioè non c'è lo stesso rapporto, diciamo, tra trasmissione e ricezione. Lui ti ascolta, però tu non ascolti a lui, in parole povere. A me mi ha detto, mi ha dato il controllo di 6 di segnale, radio 5, però un po' più bassa di dove di coso di Falchetto. Almeno adesso non lo ascolto più. Ci sei ancora, dov'è? Dov'è? Ti sto perdendo, ti sento piccolino piccolino, dove sei arrivato? È arrivato al primo radar e sta prendendo il secondo radar. Beh, io ti ho quasi perso, dai, se mi stai ascoltando ti saluto, dai, mi farà la ponte eventualmente, come si chiama, Antonio Falchetto, per vedere se mi hai ascoltato, ti saluto, buon viaggio e buon rientro per tutto quello che devi fare, ciao ciao. Io lo sento lontanissimo, prova tu Falchetto, mi ha scoppiato? Sì, ti copia sempre forte e chiaro, e al ponticello prima del fornitore ti ascolta forte e chiaro. Allora lui dovrebbe fare qualcosa per farci sentire, dai. Ok, anche io sono arrivato ai limiti dell'antenna mia in ricezione, dai. Purtroppo anche io ho dei palazzi, quando il segnale si attenua così tanto me ne tirano fuori il segnale. Ok, di nuovo ti ricambio i saluti. Ok, ti lancio a Luca se vuole salutarti, se lo ascolti ancora, avanti Luca se ti ascolta ancora Domenico. Grazie, perso, avanti tu Falchè di nuovo. Cappa, dai Domenico, io ti saluto prima di perderti, fate la buona e a più dopo se coincide Domenico. Ok, grazie per i saluti, Robe ti saluta e niente, vai avanti. Sì, sì, già ho sentito questo passaggio, ok, c'è anche Antonello, buon pugno, ciao Antonello, avanti tu per Domenico, se ti ascolto. Salutoni a tutti, ciao anche Domenico, salutoni. Quindi ricordo, riprendi che va bene. Non lo so di più? Io te l'ascolto. Ha detto io arrivo il più forte, ciao Pomponio, ti ha salutato. All'ascolti a Pomponio! Ciao Domenico, ciao, ciao, fate la buona. Ti saluta Domenico Pomponio, ciao, ben sentito, buonasera. Ciao Domenico, baci e abbracci, ci sentiamo a domani, buona Pasqua. Vai Roberto. Oh, vi lascio, mi hanno chiamato. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Antonio, eventuali amici. Ascolto, ciao Luca, ciao ciao, correte da parte mia. Ciao Roberto, alle prossime, ciao, avanti Popo. Diminuisco. Ho avuto più volte poco fa. Erano quasi 90. Che cosa? Mi batte con chi? Ciao Robert, ci vediamo dopo al limite sempre. Oh, sono diminuito a 5. Faccato. Eh beh, cosa combini di bello, cosa combini? Mi, Antone, un po' di radio, un po' di radio. Poi ci andiamo, facciamo una carichetta e tutti andando. Che può fare, che può fare? E tu? E con questa pioggia cosa fai? Non puoi fare nulla. Ma cosa fa il detto per andare? La pacca, fa la tutto il giorno a casa. Tutto il giorno a casa? Dammi le palpebre. Ho capito, ma non sei entrato per niente al baracchino. Sì, stamattina sono entrato, c'era Maria Bavolotta e poi ho chiuso. Poi è passato Giuseppe qui stasera. Stavo guardando un attimo il mio baracchino, questa questione che in pratica prima la potenza rimane bassa, poi piano piano si solleva. Non stavo controllando, ma non c'è nulla. Ma così è il tipo del radio. Ascolta, Antonio, adesso che siamo un argomento. Io ho una radio, ce l'ho presente, di quelle radio che sono sovrapposte uno con l'altro, c'è mangia dischi, mangia cassette, come... accende tutto, no? La numerazione, prende... ma non si sente, non si sentono le colonnine. Cosa potrebbe dipendere? Ascolta, attacco di cuffie ne ha quella radio, sì. Sì, c'è l'attacco delle cuffie. Ah no, prova a mettere le cuffie e vedi se si sente. Se nelle cuffie senti, vuol dire che c'hai qualche problema, potrebbe essere l'attacco delle cuffie, magari tu hai messo le cuffie e non ti fa la commutazione da interno a esterno. E quindi se senti in cuffia la puoi sentire all'esterno naturalmente. A meno che non siano le colonnine. Le ho cambiate anche le colonnine, ho provato, funzionano, però in quel tipo di radio non mi funzionano. Adesso dovrei provare in cuffie, come stai dicendo tu, e vedere un po' se in cuffie esce. Dovete provare in cuffie. Se in cuffia esce, vuol dire che i trafilari stanno funzionando. Ecco, ormai dalle casse non esce. Perché a volte secondo che se non tu metti la cosa fa anche a me l'ha fatto, non ti fa la commutazione la lamella e quindi ti rimane sempre come se ci avessi sempre le cuffie inserite, capito? Ma si può controllare? Sì, col test. No, ho capito, metti il test e controlli le uscite. Esatto. Se mi dà negativo? Se non esce allora sono i finali, ma se mi hai detto che le colonnine non hai mai usato, quella sfera non l'hai mai usato in pratica, funzionava prima, così è, poi l'hai lasciato da una parte, non l'hai più usato. Esatto, non l'ho più usato, adesso abbiamo detto l'ho acceso, ho attaccato i fili delle colonnine, poi da la voce, non esce la voce, capito? Devo provare col test al dietro, bisogna inserire il test, provare a sollevare il volume, vedere se prendo a mini ampere, se si solleva vuol dire che se segna la tensione, vuol dire che il finale sta funzionando, se no c'è qualche problema dentro. Ho capito, comunque per vedere, per essere più precisi mi devo mettere le cuffie, in poche parole. Esatto, puoi farlo anche adesso, se c'è un paio di cuffie di quelle grandi, le inserisci e vedi se c'hai il coso. Aspettate un secondo. Che preghiere! Vedo che è. Gli amici, senti qua, vita via, che bello. Ehi, ti ha salutato Roberto che ha chiuso. C'ero, stavano a mangiare il cane, che stavamo rugnendo là. Stavo mangiando qua, io mi sono fatto questa manoccia, no? Stava guardando, stava lamentando. Avevo dovuto scontare che stava rompendo la scatola. Vabbè, comunque ti ha salutato Roberto. Niente, l'avevo già chiuso. Comunque, ciao Roberto, mi stai ascoltando. Caduto sono, cazzo. Saluto. E tu Luca? Ah, poco, mi hanno provato la sedia. Penso che a poi. Stavo ascoltando l'antenna della televisione un attimo, che si era girata. Una cosa con la 5 è quell'antenna che ho pensato io. Adesso lo vedo benissimo. KK. Beh, ascolto, siccome io non ho le cuffie con l'attacco grande. Tu ce l'hai qualche spinotto da adattare con l'attacco piccolo? Sì, già ce l'ho. Da grande a piccolo ce l'ho. Ah, ce l'hai, e così faccio la prova, pure già te lo restituisco. Ce l'ho comprato, cosa costa dopo? Questo è un euro, 2 euro, cosa, quanto vorrei costi. Ah, KK, e cosa le devo dire? Lo spinotto per... da grande a piccolo, basta, per cuffie. Da attacco grande a attacco piccolo. Adesso vediamo se non è già, ci faccio magari una scappatella. Sì, vabbè, stereo, ricordati di dirmi, non mono, è stereo. È stereo, dico, lo stereo di casa. E l'attacco è stereo, ho detto, non è lo stereo di casa. Lo spinotto vuole stereo, capito? A 3 contatti in pratica, non a 2. Perché c'è anche quello mono, pronto su ricetto. Attacco stereo. Non ho mostrato la radio, dai. E vabbè. Non avevi capito tu. Gava, gava. Allora, ne abbiamo 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, manco una striscia. Quello lì del palazzo sto facendo biondo il televisore adesso. Perché? Perché mi ha detto mamma l'altra volta, dicevo, si vedeva il televisore, appena ho spento tutto, mi ha detto il cucino è andata con i cazzi. È già vero, vero, anche bene, guarda un po'. Era benissimo con l'antenna piazzata lì, a Badi Urba. Ma è qua quella cosa, spiega i pesci? Che io, spiega i pesci, sì. La GBC ce l'ha, la sta vendendo 20 euro. Diciamo vero, è 90 centesimi per esattezza, alla GBC. Che è stato così chiaro? Invece la cosa costa 8 euro, costa. 19,90 costa proprio, non c'è scritto qua, antenna per TV digitale, questa è la logica. Ah, ma sono sempre più caro la GBC. Non so, c'è anche una carina con l'antenna, figurati, nel buco, dove prende benissimo, prende. È una bomba come antenna, guarda, è una cosa semplice, funziona molto meglio delle altre. A meno devi stare a lavorarti, che si usi a ricosi, spinotti e cose del genere. Vitto. Ascolta, come ce l'ha attaccato l'antenna, quella a vite? No, devi mettere il cavetto all'interno, vi faccio vedere come si fa. Poi c'è la cosa fuso, c'è quella a vite, costa 10 euro mi pare, sta vendendo 10-15 euro, mi ricordo. Comunque è uguale, fuso c'è la colata qua a fitte. Oh, ho capito. Non mi spiegano fiducia con gli attacco a vite. Allora, quando la prendi passi qui e te la aggancio io, non preoccuparti. Col cavo. Poi tu fai altro che stai. Andare piazzata, sopra il tetto. Te la piazzo qui. Faccio proprio così, un po'. La compro, salgo da te e così tu li fai che dovete l'attacco, io faccio altro che attaccavo direttamente al cavo, diciamo, ecco. Esatto, se c'è il trattino la punti lì a quella specie di cosa che c'è a provare, sì. C'è il serbatoio dell'acqua che c'è a provare l'acqua, che non è più la casa tua. La punti lì in orizzontale prende benissimo. E poi ti entri il tavolo dentro casa, come piace a te. Se lo fai, soprattutto la metti in verticale. E la punti a Monteoro dove c'è il ripetitore, è perfetto. Perché le interazioni abbatti ciò che il cazzo del grattacielo non prende. Non prende, no. Se c'è il grattacielo non prende. Perché c'ho il palazzo alto, più abbatti ci vuole il grattacielo, quello più alto il palazzo, quello blu. E devi serrarla lì, è difficile prendere. Invece la parte del riposo con il disco tutto aperto. Poi lui vedi a cosa? Badi Urbana lo prende in pieno. Capito da qui, figurati, Badi Urbana. Lo prende in pieno, il segnale è molto forte qua. Eia. Un po' di cavo in più dovrei passare perché piazzando da qua devo passare il cavo all'interno, farlo passare sopra e portarlo in cucina, capito? Bel tragitto, E se lo te la metti su e te la fai scendere il cavo direttamente giù. Sì, l'unica è metterla su e fare scendere il cavo da su. E l'unica almeno sei più tranquillo. Eia. Va bene, io vi saluto che me ne vado a mangiare qualche cosa. Se ci siete a più dopo, se no ritenetevi tutti super salutati. Ciao Tore, alle prossime, ciao Luca e ciao a eventuali ascoltatori. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Comunque, di buon tutto alle prossime. Ciao a tutti.